Io mi chiamo Sebastian, ho 21 anni e anche se sono giovane a me mi garbano molte le MILF, no? Essendo lei un gran milfone, cioè, ora, io non so Cruciani, però io sinceramente un'uscitina la farei, una scenetta, qualcosa di tranquillo, poi ci vedi chi viene, insomma.